ogni ci avete raccontato, questo stato assassino ci ha sempre infangato. Noi vogliamo indipendenza e tanta autogestione, forse proprio da quest'isola partirà la ribellione.